Siamo a visionare il cinema su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta e le informazioni le trovate sul sito internet della Radio Onda Rossa.info, alla voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, oppure in streaming sull'home page del sito della radio, c'è ascolta alla diretta. Olga Gambari della sezione Screen del Festival The Others, che sarà a Torino all'ex carcere Le Nuove dal 5 all'8 novembre, quindi da oggi. Olga, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' cos'è The Others e poi questa sezione dedicata alle immagini. The Others è una manifestazione che ha nel suo cuore una fiera, è ambientato in un carcere, in un ex carcere dell'Ottocento. Ogni cella accoglie un espositore, una galleria, un'associazione, insomma pratiche diverse di come l'arte contemporanea presenta e propone il lavoro degli artisti. Attorno a questa fiera di 64 espositori si sviluppano tre sezioni che sono dedicate, una al video, una alla performance e una al suono, alla musica, ma al suono più in generale. Una di queste sezioni, appunto, dedicata al video, si intitola Other Screen e lavora proprio sul presentare le differenti forme che attraverso l'immagine in movimento declinano quello che è il linguaggio contemporaneo dell'arte legato a questo immaginario. E quindi ci sono video d'artisti di tutti i tipi, diciamo idee differenti di quello che può essere il concetto di video arte nella contemporaneità, e anche delle sezioni, degli special program, diciamo così, presentati da alcune realtà che lavorano proprio con il video o degli spazi dedicati e più interessati a questa direzione. E quindi abbiamo delle selezioni, okay. Per esempio di selezioni di un progetto olandese che si chiama Hotel Maria Kapel, che è un'associazione, uno spazio gestito da artisti, che presenta una selezione di video in collaborazione a loro volta con uno spazio di Bangalore in India. Oppure abbiamo anche dei piccoli film, in realtà sono una novità di quest'anno. Per chiudere le serate c'è un progetto che si chiama See You Sound, un festival di film legati proprio anche alla musica, quindi immagini, sì, sì, movimento, e questo mix di questo mashup di linguaggi, e con loro abbiamo questa collaborazione per cui le serate finiranno con un vero e proprio film nella notte per chiudere la giornata. Sì. Tra l'altro con loro li abbiamo già avuti, ecco, ospiti, sì, e conosciamo la loro attività. Bene. Senti, quanti sono le opere video che presenterete in questa sezione? Beh, sono tantissimi titoli e tantissimi artisti. Immagino anche di diverso formato, dai cortissimi ai mediometraggi, insomma. Assolutamente. Per esempio, ci sono dei video che durano un minuto e qualche secondo, ma anche dei lavori più lunghi, per esempio Danza d'Agosto. Una sorta di documentario che dura 25 minuti, presentato anche al Festival di Torino, ed è un racconto attraverso gli occhi e la vita di un anziano operaio torinese di un certo tipo di mondo, ma alla fine diventa ideale, un racconto poetico astratto, per cui di un certo tipo di identità e di vita. E così anche come c'è un artista inglese, slava, che bosniaca, scusate, in inglese, che presenta un lavoro che è assolutamente un lavoro invece di teatro filmato, per cui c'è un ambiente chiuso in un interno claustrofobico curatissimo, i cui interni e i costumi sono stati curati da Vivian Westwood dal suo studio, ed è una sorta di Kammerspiel che si svolge all'interno tra questi personaggi che diventano simbolici e sull'idea di linguaggio, quindi molto concettuale da un certo punto di vista, sì, fino a tutta un'altra serie di idee differenti, alcune più simboliche, alcune più realiste, alcune che debitrici di immaginari magari legate al territorio nazionale, insomma più italiani, alcuni più europei, così come di tutte le altre nazionalità da cui arrivano i lavori, per esempio da Cuba, che quest'anno per una serie di casi ha una grossissima presenza via Others, con almeno 3 spazi dedicati a presentare artisti cubani in modalità diverse, dal collettivo alla galleria vera e propria. Senti Olga, in chiusura diamo i riferimenti internet per la programmazione? Sul nostro sito viaders.com ci sono tutti i programmi, la sezione da identificare con tutta la programmazione giorno per giorno e anche con gli orari e i timing, che a noi sembra molto importante perché per poter seguire questi lavori, certo. È sul sito e bisogna guardare e cercare Other Screen. E Other Screen appunto accade in una vera e propria sala cinematografica che noi abbiamo apprestato per i galleristi e per gli artisti, e quindi la fruizione è assolutamente cinematografica, con sedie, telone, insomma quella dimensione tradizionale in cui però secondo noi il video d'arte deve essere fruito per avere il suo ambiente, per avere il suo sviluppo narrativo corretto e per il pubblico, dal punto di vista del pubblico, per essere messo in condizione di veramente godere un lavoro come è stato pensato, nella condizione migliore. Bene. Allora Olga, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, buona giornata. Ciao. Ciao. Olga Gambari della sezione Other Screen del Festival The Others all'ex carcere Le Nuove a Torino da oggi 5 novembre fino all'8. Parliamo ora dell'8ª edizione di Visioni Fuori Raccordo, ne parliamo con Giacomo Ravesi a Roma dall'11 al 15 novembre. Giacomo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì, ciao, grazie a voi. 8ª edizione, intanto parliamo delle caratteristiche di Visioni Fuori Raccordo, Giacomo. Sì, il festival è dedicato al documentario. E questa edizione in particolare speriamo sia una edizione in trasformazione, che ha delle conferme e delle novità. La conferma più importante è sicuramente il concorso di documentari italiani, che recupera un po' tutta la produzione, il meglio per noi chiaramente, del documentarismo italiano realizzato negli ultimi 2 anni. La tematica originaria è quella della periferia, che però nel corso degli anni si è via via evoluta e guarda anche a declinazioni più metaforiche del concetto di periferia, quindi le minoranze, i luoghi per esempio della malattia e delle marginazioni, i ritratti umani, quindi di marginalità esistenziali e via dicendo. Senti, per quanto riguarda i documentari, quante sono le opere di questa edizione per quanto riguarda i lavori italiani? Allora, i lavori italiani sono 12 documentari, sì, di cui 2 opere inedite e altre 5 invece anteprime romane. Gli altri sono comunque dei documentari che hanno circuitato poco chiaramente nelle sale, e questo è sempre di più una mancanza, in particolar modo adesso anche a Roma, visto anche alcune vicende come quella del Cinema Aquila, no? Hanno sempre dato meno visibilità alla visione anche dei documentari, e quindi in questo mi sembra che Visione Fuori Raccordo cerca di mantenere a Roma una base per poter anche recuperare le opere del documentarismo contemporaneo italiano. Senti, oltre a questa, ecco, quali sono i criteri di scelta dei lavori che portate poi al festival? Sì, i criteri di scelta, guarda, appunto dicevo prima che nasce come a tema questo festival, sì, dedicato appunto alle periferie, alle sue marginalità eccetera. Nel corso degli anni ci siamo accorti che la cosa troppo interessante era cercare di capire soprattutto dal punto di vista stilistico dove stavano andando queste giovani generazioni. Il festival nasce nel 2006, però diciamo che nasce anche sull'onda, diciamo, di quella grande rivoluzione almeno in Italia del documentarismo italiano, che aveva portato il documentario di creazione un po', in cui era nata una nuova generazione. Noi crediamo che ancora oggi ci siano delle nuove generazioni che stanno trasformando il documentarismo italiano, e quindi l'aspetto più importante per noi chiaramente è quello tematico, però ci lasciamo ammaliare, se vogliamo, soprattutto dalla ricerca stilistica, cerchiamo di capire soprattutto che cosa può essere il documentarismo oggi, diciamo, in Italia. Giacomo, saranno presenti anche gli autori? Sì, tutti gli autori saranno presenti in sala. E però scusa, dico però l'altra cosa importante, questa sì. È la nostra conferma, diciamo, quindi il documentarismo italiano quest'anno abbiamo cercato di guardare anche al documentarismo internazionale. Infatti abbiamo in particolar modo l'apertura del festival dedicata forse a uno dei maggiori documentaristi, insomma, tra moderno e contemporaneo, che è Frederick Wiseman. Il film è in Jackson Heights, il film che stava a Venezia quest'anno e che praticamente non ha ancora una distribuzione italiana, sta girando un po' in Italia, ma a Roma sarebbe chiaramente l'anteprima. Bene, allora a questo punto ci dai riferimenti internet per il programma online? Sì, il programma lo potete consultare su www.fuoriraccordo.it. E le date appunto saranno l'11, quest'anteprima del film di Frederick Wiseman al Cinema Farnese a Campo dei Fiori, e dal 12 al 15, quindi dal giorno successivo, fino a domenica al Cineclub dei Tour a Monti. Bene, Giacomo, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Tresi, grazie, grazie a voi. A presto, ciao. Grazie. Ciao. Giacomo Ravesi dell'ottava edizione del Visioni Fuori Raccordo a Roma dall'11 al 15 novembre. E ritroviamo anche Francesco Valvo per parlare della terza edizione di Documentaria Noto dal 6 al 15 novembre. Francesco, come stai? Ciao. Ciao Federico, grazie intanto per l'invito da parte di tutta Documentaria, tutto lo staff e la direzione artistica. Senti, bene, siamo praticamente risgoccioli, nel senso che oggi è l'ultimo giorno di preparazione e domani inizia il festival. E si prospettano 10 giorni molto intensi, appunto dal 6 al 15, come dicevi tu prima. Senti, una Sicilia molto vivace da questo punto di vista, quante opere presenterete in questa terza edizione? E allora, abbiamo 12 opere in concorso, il concorso di selezione si chiama Panorami, sono 12 in totale, sono lavori documentari che provengono un po' da autori di tutta Italia, e li proietteremo durante i weekend, diciamo, del 6, 7, 8, 13, 14 e 15 al Teatro Comunale di Noto. Mentre poi abbiamo delle sezioni fuori concorso che sono in collaborazione, una con il Babbe Film Festival e la Cineteca Sarda. Sono la proiezione di 4 documentari che parlano, diciamo, specifiche sulle lingue minoritarie, perché il Babbe Film Festival parla di questo, mentre altre 4 proiezioni le avremo sempre fuori concorso in collaborazione con distribuzioni dal basso. Sì. Sono lavori presi proprio scelti dal loro catalogo e che proietteremo durante la settimana che va dal 9 al 12, quindi in quei giorni, diciamo. Poi abbiamo anche delle novità, a parte queste proiezioni fuori concorso, noi siamo arrivati alla terza edizione, quindi diciamo le novità sono le proiezioni fuori concorso di cui vi ho detto prima, e i Focus Day, cioè delle giornate di approfondimento specifico, una sempre in collaborazione con distribuzioni dal basso e produzioni dal basso, dove appunto si cercherà un po' di delineare la storia del circuito di distribuzione e produzione dal basso, la sua evoluzione, il suo utilizzo oggi e cosa accadrà poi nel futuro, insomma, come ha cambiato anche un po' il panorama italiano e non solo. E poi un altro Focus Day con Stefano Tealdi, che è un produttore della Ste Film di Torino, in cui invece si marcherà un po' l'attenzione su quali sono i processi produttivi che portano poi all'effettiva realizzazione di un lavoro filmico con una produzione alle spalle. E per finire abbiamo 3 workshop di formazione quest'anno, 2 della durata di una settimana, uno di animazione sperimentale tenuto dal docente Paolo Bonfiglio, che insegna a Genova, e uno di estetica e tecniche del montaggio tenuto da un montatore professionista della RAI che si chiama Dario Indelicato. È un open day invece, un'unica giornata, questa gratuita, organizzata da Cane Capovolte, Scuola Fuori Norma di Catania, dove praticamente per chi vuole, insomma, può passare con loro un intero pomeriggio per provare gli ultimi prodotti, in un certo senso tecnici per audio video, utilizzati nel campo documentario. Quindi è proprio una sorta di focus specifico sull'utilizzo di attrezzature tecniche. Insomma, sono giorni molto pieni, quasi ogni giorno ci sarà sempre qualche cosa da fare o da vedere. Ripeto, il programma è dal 6 al 15 novembre. Poi tutte le cose nello specifico sono sul sito internet, che è www.documentarienoto.it. Ci sono anche le pagine Facebook, le pagine Instagram, insomma trovate sui social, ci trovate ovunque. È tutto un po' più nello specifico di come ve lo sto raccontando io, Francesco. E questo, diciamo, è quanto. Francesco, tornando al concorso, ai 12 documentari, ci sono delle caratteristiche che li accomunano? Sì, quest'anno noi abbiamo deciso di concentrare l'attenzione su una tematica in realtà che è molto larga, direi, nel senso che abbiamo scelto e selezionato dei film in cui si evince in qualche modo il rapporto fra l'individuo, fra l'uomo o più gruppi di persone e il territorio che vivono. Ciononostante non sono film che parlano, diciamo, soltanto d'ambiente, piuttosto che film che parlano di città o comunque di contesti urbani. Diciamo che il rapporto fra l'uomo e il territorio è indicato sia in chiave interiore, quindi il territorio interiore di quella persona, no? Sì. Il rapporto interiore che ha, sia nel lato appunto esterno. E quindi abbiamo dei lavori molto eterogenei tra di loro, a livello di racconto e di linguaggio, ma che comunque abbracciano dal nostro punto di vista questo aspetto. Quindi ci sono lavori, documentari saggio, documentari molto intimi, dei diari, piuttosto che chiaramente documentari di inchiesta sul territorio, di denuncia, biografie. Quindi ripeto, il panorama è molto vasto, motivo per cui poi la selezione è chiamata appunto Panorami. Bene. Ci siamo basati su prospettive e punti di vista differenti, avendo però questa tematica come oggetto specifico, insomma. Bene, Francesco, i riferimenti ce li hai dati, ci sentiamo presto allora magari per prossime iniziative. Grazie sempre, spero insomma che se siete di passaggio riuscite a venire a Noto, e sono sicuro che saranno 10 giorni molto intensi per chi parteciperà. Bene. Quindi, grazie mille. Bene, un abbraccio e a presto. Ciao Francesco. A te, ciao, ciao, ciao. Francesco Valvo per quanto riguarda la terza edizione di Documentaria Noto dal 6 al 15 novembre. In collegamento ora con Iskra Roma per parlare del documentario È stato morto un ragazzo, che sarà proiettato al centro sociale Ricomincio dal Faro qui a Roma domani 6 novembre per una ricorrenza, giusto? Sì, abbiamo voluto ricordare Federico anche da Roma, anche se con qualche mese di, cioè un paio di mesi di ritardo, per concentrarci principalmente su quello che era la data a Ferrara. E niente, l'abbiamo voluto onorare con questo bellissimo documentario. Senti, si sta parlando, insomma, per chi ci ascolta, di Federico Aldrovandi. Sì, ovviamente. Raccontiamo in breve la vicenda che ha visto la sua tragica morte. Ma guarda, a proposito, abbiamo chiamato appunto anche l'associazione domani al dibattito che si terrà. Prima ci sta anche l'associazione Mefisto, che si occupa proprio di questo, cioè dei ragazzi morti per la repressione, per questa repressione ingiustificata, cioè conseguente all'uso di sostanze stupefacenti leggere come la marijuana, e che insomma è quello che è successo a Federico, cioè in possesso semplicemente in una canna, e una perquisizione che poi insomma è finita con la sua morte per motivi misteriosi, ecco, mettiamola così. Sì. Senti, per quanto riguarda il documentario, lo raccontiamo un po' a chi ci ascolta. Il documentario ripercorre tramite le ricostruzioni e anche i depistaggi, perché comunque per far sentire, tra virgolette, sentire le varie campane ci sono anche raccolti delle ricostruzioni di quelli che, di quello che così hanno testimoniato i poliziotti, che da sottolineare sono ancora in servizio e non hanno praticamente ricevuto alcun tipo di pena. E niente, praticamente racconta quello che è stato prima l'incontro e il dopo la morte, e le ricostruzioni e anche i vari depistaggi da parte della polizia. È un documentario abbastanza toccante, specie perché comunque parlano i familiari, e insomma è un bel lavoro di un'ora e mezza, ma molto intensa. Senti, com'è organizzata la serata al centro sociale Ricomincio dal Faro? Allora, al Faro è organizzato che semplicemente inizierà verso le 7:30 così un aperitivo con anche il dibattito. Come già detto, viene Mefisto, viene l'organizzazione Mefisto, e viene anche ACAD, che insomma si occupa proprio, oltre a Federico Aldrovandi, di cui si è occupato ampiamente, ma anche Stefano Cucchi, ma anche tante altre situazioni di mala polizia. E niente, ci sarà un dibattito per le 7:30, inizierà questo dibattito, un aperitivo, e poi niente, per le 9 inizierà questo documentario, e speriamo insomma di proiettarlo e fare onore alla memoria di un ragazzo appena diciottenne, che insomma è morto in delle circostanze davvero misteriose. Senti, per quanto riguarda le informazioni su internet, dove si può cercare per il programma? Allora, come sulla pagina Iskra Roma, comunque ci sono tutti i riferimenti all'evento che è stato creato, e anche ai vari regista, anche a tutti quelli che sono i creatori del documentario. Quindi tendenzialmente sui social siamo diventati social e abbiamo riempito insomma dove possibile insomma di questo evento, di questa proiezione. Ok, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, e alla prossima. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao. Questo per quanto riguarda la proiezione domani, nella giornata di domani, del documentario "È stato morto un ragazzo" di Filippo Vendemmiati al centro sociale Ricomincio dal Faro, domani venerdì 6 novembre. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per la posta elettronica l'indirizzo è visionari@ondarossa.info. Eccoci puntuali come ogni anno con Stefano Martina per parlare della edizione 2.3 di Arcipelago, Festival di cortometraggi e nuove immagini, al Teatro Palladium qui a Roma da ieri fino al 10 novembre. Stefano, ben ritrovato. A voi, siete sempre fedelissimi nel seguirci, grazie. Allora, intanto spieghiamo a chi ci ascolta cos'è Arcipelago e come mai questa edizione 2.3. Arcipelago è un festival che si occupa di nuove immagini, dai cortometraggi al documentario, a internet, alle nuove frontiere della realtà virtuale. È un mosaico, appunto un arcipelago delle varie isole dell'immagine audiovisiva. Cerchiamo ogni anno da 23 anni di restituire almeno in parte una piccola porzione di questo panorama in continuo movimento, soprattutto in questi ultimi 10 anni di digitale, nuove tecnologie, internet eccetera, e di farne godere il pubblico il più possibile. Senti, com'è strutturata l'edizione di quest'anno? Beh, quest'anno abbiamo per la prima volta anche diciamo dei lungometraggi di un certo peso. Abbiamo appena adesso terminato un incontro con la stampa del nuovo film di Costanza Quadriglio, un documentario di lungometraggio che affronta in modo, dal punto di vista cinematografico, molto forte, eccetera, un caso di trattamento sanitario obbligatorio che ha portato alla morte appunto la persona che era stata ricoverata in un istituto psichiatrico in modo futile, senza alcuna vera ragione sanitaria. E è un dibattito al quale ha partecipato Luigi Manconi, il senatore Luigi Manconi, che è appunto il presidente dell'associazione che si è occupata anche del caso Cucchi a buon diritto. E è un film che verrà poi pubblicamente proiettato per la prima volta domani sera, venerdì, ma ci sono anche film, diciamo, meno impegnati, più leggeri, più spettacolari, come per esempio il film di Godfrey Reggio, l'ultimo film inedito ancora in Italia, che si intitola Visitors. E abbiamo anche però delle anteprime di giovanissimi registi come Ludovico De Martino, che a 22 anni ha appena realizzato il suo primo lungometraggio, il nostro ultimo, e che verrà invece proiettato in anteprima lunedì prossimo. Poi ovviamente ci sono i cortometraggi, ci sono retrospettive, in particolare la riscoperta di una serie televisiva firmata negli anni 50 da Orson Welles, il nostro omaggio a Pasolini e anche a Fassbinder, però, perché quest'anno ricordiamo che ricorre il settantennale della sua nascita, mentre Welles festeggia allo stesso tempo il centenario della nascita e il trentennale della morte. Quindi ci sono anche alcuni appuntamenti legati ad anniversari. Mm-hmm. Però è un programma veramente molto molto nutrito, ce n'è per tutti, dalle 12 di mattina fino a mezzanotte inoltrata. Bene, quindi una mezza giornata abbondante. Stefano, più o meno quante sono le opere presentate? Guarda, sono circa un centinaio, tra cortometraggi e lungometraggi. Abbiamo tra l'altro la prima personale completa dedicata ai Manetti Bros, i Manetti Brothers, al quale arcipelago appunto che li segue dagli inizi della carriera, quando girarono uno degli episodi del film cult Degenerazione, che riproporremo sabato sera in occasione dell'incontro con loro qui al Palladium. E questa retrospettiva verrà poi riproposta in forma anche più completa nel prossimo mese di gennaio alla Casa del Cinema, in due weekend successivi. Bene. Senti, volevi segnalare qualche altro titolo in particolare, Stefano? Ma guarda, io ci tengo molto a segnalare due film che vengono proiettati questa sera alle 10, tra tanti, se non altro perché non sono né lunghi né corti, sono dei mediometraggi, durano circa un'ora ciascuno, ma sono, diciamo, abbastanza assonanti tra di loro. Uno è un film d'animazione che è stato anche la mostra di Venezia, i Venice Days di quest'anno, ed è prodotto da Gianluca Arcopinto, che tra l'altro ha anche due opere prodotte da lui qui nel Festival in sezioni diverse, ed è anche nella giuria del concorso internazionale cortometraggi. Questo film si chiama Bangland, è un film d'animazione legato anche all'esperienza del laboratorio Mina delle Vele di Scampia. E l'altro mediometraggio invece è un curioso viaggio attraverso l'Uruguay e l'Argentina, realizzato da Antonio da un regista appunto italiano che vive all'estero, tra Barcellona e Sud America, Antonio Marenco, ed è un film che si pone delle domande sulla reale rappresentatività degli uomini politici, mettendosi sulle tracce con una finta troupe televisiva di Pepe Mujica, l'ex presidente uruguaiano, nel tentativo di ottenere un'intervista, perché è una sorta di caccia all'uomo realizzata un po' nei toni tra Moretti e Corso Salani. È un film che si pone degli interrogativi politici ma anche esistenziali, oltre che geocinematografici, se vogliamo definirli così. Bene, per tutto il programma online dove si può cercare, Stefano? Il nostro sito, che è www.arcipelagofilmfestival.org, oppure su Facebook, sulla nostra pagina dedicata appunto alla 23esima edizione, è una pagina evento, è facilissimo individuarla. Ci saranno anche alcuni degli autori e autrici dei lavori? Certo, sicuramente alle 8 di sera, quando proiettiamo i corti del concorso nazionale, ci sono quasi tutti sempre gli autori, a maggior ragione se si tratta di corti in anteprima, mai proiettati prima. Però appunto domani ci sarà invece per il film 87 ore la regista Costanza Quadriglio e diversi altri ospiti. Domani tra l'altro avremo anche dalle 3:30 fino a circa le 6 un incredibile, interessantissimo incontro su videogame e realtà, cioè come i videogame si occupano, sembrerebbe quasi un controsenso, della realtà. Ci sono molti videogame che si basano su casi sociali o comunque diciamo non legati proprio a un semplice discorso di entertainment, ma che usano il videogame come modo per raccontare delle storie vere. Bene, Stefano, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi. Grazie a voi. A presto. Ciao, ciao Stefano. Ciao. Stefano Martina, direttore della edizione 2.3 di Arcipelago, Festival di Cortometraggi e Nuove Immagini, al Teatro Palladium qui a Roma da ieri fino al 10 novembre. Un appuntamento abbastanza consueto con Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso per parlarci delle novità di questo mese di novembre. Paco, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Distribuzioni dal Basso, per questo mese ci sono delle novità interessanti, me le hai segnalate per mail, raccontiamole a chi ci ascolta, Paco. Sì, abbiamo ripreso appunto la nuova stagione sia di prime divisioni che di lavoro di archivio di Distribuzioni dal Basso, e tra queste abbiamo in particolare due lavori che sono entrati e che sono due prime visioni e che ci tenevamo tantissimo ad avere. Uno è Memorie in viaggio verso Auschwitz, che è l'ultimo lavoro di Danilo Monte, un autore molto molto bravo, e soprattutto quest'ultimo film che ha fatto, un lavoro biografico su suo fratello, ha già vinto molti premi sia in Italia che all'estero, nonché un premio al Torino Film Festival dell'anno scorso quando si è presentato come anteprima. Sì, l'abbiamo già avuto con noi un paio di volte, l'ultima proprio in occasione dell'uscita in sala. Esatto, esatto. E tra l'altro appunto con Danilo ormai è un rapporto che si sta rafforzando, nel senso che sul catalogo abbiamo anche ospitato già da diversi mesi l'altro lavoro, che è 8 punti e che è un lavoro invece completamente diverso, per cui si è in qualche maniera, si sta rafforzando una relazione, ecco, anche con il suo gruppo e il loro gruppo. E la seconda novità del mese, che è sempre una prima visione, invece è Il Sole Contro di Beberto Edizioni, che è un documentario che riprende e riracconta in qualche maniera, e cerca anche di aggiornare quello che riguarda i famosi fatti di Reggio Emilia del 1960, con interviste anche ad alcuni dei familiari delle vittime, ed è un lavoro che noi ci tenevamo molto ad avere in catalogo, non solo perché appunto è un tema a cui in qualche maniera piace l'idea di fare in modo che quella storia non venga dimenticata e che venga anzi ripercorsa e riraccontata anche alle nuove generazioni, ma soprattutto perché è un lavoro molto molto ben fatto, sia con interviste che con fasi invece dove va ad affrontare anche in qualche modo ripercorrere quello che sono stati gli avvenimenti, quindi ha una funzione anche proprio di rinforzare la memoria storica su quel fronte, ma in particolar modo per noi è molto importante anche perché De Berti Edizioni è la casa editrice e sarà la prima casa editrice che ospiteremo tra qualche mese sul catalogo, perché da qui a qualche mese apriremo anche una sezione libri, sempre ovviamente seguendo tutta una serie di parametri, quindi licenze Creative Commons e metodologie di distribuzione alternativa, e in qualche maniera aprirà un nuovo ramo di questa sfida distributiva che ormai diciamo che percorriamo da quasi 3 anni con tutta una serie di soddisfazioni che stiamo piano piano raccogliendo. L'altro su Bugani è un nostro amico di viaggio da tempo, il nostro operaio regista, e ci fa sempre piacere segnalare i suoi lavori. Esatto. La cosa tra l'altro molto bella è che, e questo vale sia per appunto per Bugani ma anche per altri gruppi, è che adesso stiamo anche iniziando proprio a fare una sorta di lavoro di teche e di archiviazione, ovvero ci sono alcuni autori che magari appunto già da diverso tempo hanno alcuni loro titoli in catalogo, che stanno iniziando a darci tutte le loro filmografie complete in maniera tale che DDB sia un metodo di distribuzione alternativa di opere documentaristiche non che di recente uscita, ma che appunto gli utenti poi sul web possono attraverso la navigazione anche andare a rivedere e ripercorrere tutti i loro lavori pregressi, e quindi insomma anche questo chiaramente per noi è un passo importante, perché alla fine di tutto l'obiettivo principale del nostro progetto distributivo è creare e rafforzare un network di autori indipendenti. Certo, quindi certo. Tutti questi sono passi che ci aiutano piano piano a fare in modo che questa cosa non solo si formi, che ormai è già in corso, ma si stabilizzi sul piano nazionale. Senti, per quanto riguarda la memoria storica, si sta sviluppando quel settore al quale stavate dedicando un'importante attenzione? Sì, assolutamente. Adesso da novembre inizieremo a pubblicare anche nella sezione archivio storico diversi materiali che stiamo recuperando e digitalizzando. La buona notizia da questo punto di vista è che anche diciamo dal punto di vista della forma di formule di didattica alternativa multimediale stiamo ricevendo molte richieste anche magari da professori di licei, docenti eccetera, per poter utilizzare questi materiali durante le lezioni, materiali che ricordiamo noi recuperiamo dagli archivi e digitalizziamo gratuitamente e restauriamo dove l'obiettivo principale è proprio quello di fare in modo che tornino ad avere una seconda vita sul web, materiali che in alternativa sarebbero rimasti chiusi dentro scatoloni, cassetti, armadi, per cui chiaramente il fatto che stiamo iniziando a vedere anche interesse da parte di professori docenti per l'utilizzo di questi materiali non per noi rappresenta assolutamente un obiettivo insomma che ti dà raggiunto, che ti dà una gran soddisfazione, perché poi la funzione è quella fondamentalmente, soprattutto nel rapporto con le nuove generazioni. Tra l'altro mi sta venendo in mente che noi abbiamo lo sterminato archivio di Alfio Di Bella, uno dei redattori di questa emittente degli inizi, che ha un tanto materiale, in parte lo abbiamo digitalizzato ed è online gratuitamente, però insomma si può pensare anche a un intervento di restauro con voi. Certo, volentierissimo. Bene. Anche perché appunto cioè l'idea è proprio quella anche di non semplicemente di metterli online, ma proprio di organizzarli all'interno di un archivio digitale, quindi dove le persone poi possono navigare all'interno dell'archivio utilizzando tag, epoche storiche e quant'altro. Per ora l'archivio copre un periodo che va dagli anni 60 a oggi fondamentalmente, per cui insomma comincia a essere già corposo, perché sono circa 20-25 materiali restaurati, e da qui a Natale dovrebbero entrarne molti altri, perché stiamo anche iniziando a stilare degli accordi informali con degli archivi storici che appunto magari hanno tanto materiale ma non sanno concretamente come andare a dargli una nuova vita. Bene, per chiudere Paco, ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? certamente. Trovate tutto questo e tanto altro sul nostro portale, che è www.distribuzionidalbasso.com, e appunto, come avevamo anche già chiacchierato la volta scorsa, stiamo partecipando a questo bando che si chiama Che Fare, e di cui abbiamo chiacchierato l'ultima volta, e che tra le varie cose che con le quali stiamo portando avanti attraverso questo bando c'è anche l'opportunità di provare a lavorare sul fronte di internazionalizzare tutto il catalogo, quindi di renderlo agibile in multilingua e aprire tutto il catalogo anche su altri paesi. Oggi è l'ultimo giorno per sostenerci, quindi se volete, insomma, aiutarci, perché il bando chiude oggi e grazie al voto popolare online gratuito possiamo accedere alla fase finale della commissione, e insomma, se avete due minuti per sostenerci, il sito è www.openbaumhaus.com. Bene, allora Paco, ci sentiremo in seguito anche per sapere com'è andata questa storia. Un abbraccio, presto. Ciao. Grazie, a presto. Ciao. Restiamo in ambito di memoria, perché abbiamo con noi Cecilia Pagliarani, direttrice della quarta edizione del Festival Cinema Vintage dal titolo Il Gusto della Memoria, al Cinema Trevi qui a Roma, sabato e domenica 7 e 8 novembre. Cecilia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Allora, raccontaci un po' cos'è questo Gusto della Memoria. Allora, il festival piano piano si sta sempre più definendo, essendo arrivata la quarta edizione. È un festival laboratorio in cui i registi che si iscrivono devono costruire dei film fatti apposta, come unica regola utilizzare il 60% di immagini provenienti dall'archivio nosarchive.com, che è un archivio di cinema amatoriale che io e Manuel Kreldman abbiamo creato 6 anni fa. Quest'anno per la prima volta l'Istituto Luce è partner, quindi i registi hanno avuto la disponibilità anche a utilizzare le immagini dell'archivio Luce. Senti, questo archivio che avete inaugurato 6 anni fa si sta ingrandendo, immagino. Sì, è diventato veramente grande, sono 28.000 pellicole. 28.000. Sono tutti filmini amatoriali, 8, 9,5, ma diciamo il più vecchio di filmino è del 1920, quindi non sono proprio filmini che sono nel nostro immaginario, quelli dei matrimoni degli anni 70, ma provengono da parti molto lontane, giri del mondo negli anni 30, c'è un po' di tutto. Senti, si tratta di tutto materiale in pellicola o sono state anche digitalizzate alcune cose? No, è stato quasi tutto digitalizzato già, okay. Perché anni fa abbiamo vinto un concorso e abbiamo acquistato uno scanner di pellicole a formato ridotto, altrimenti non potrebbero utilizzarlo i ragazzi, immaginate a prendere ogni volta la pellicola. Però sì, l'archivio è costituito di per sé di solo pellicole. Senti, si sta ingrandendo, siamo alla quarta edizione, raccontaci un po' delle caratteristiche di quest'anno. Allora, quest'anno il tema del festival è la storia dal basso, quindi utilizzando l'archivio Luce e quello amatoriale, i registi hanno potuto un po' indagare sui punti di vista nella narrazione, per narrare la storia. E quest'anno hanno partecipato molti studenti del centro sperimentale e oltre ad avere dei grandi giurati come Pupi Avati e Roger Audin, che è un professore francese di semiotica, ma la cosa molto divertente trovo che quest'anno i ragazzi del Master Spettacolo hanno fatto un'indagine su una pellicola che abbiamo ritrovato, un matrimonio girato da Bragaglia, da Carlo Ludovico Bragaglia, e loro hanno fatto tutta un'indagine e verrà presentata al festival. Bene. Senti, per quanto riguarda le informazioni online, c'è un sito internet di riferimento? Assolutamente, molto semplice, ilgustodellamemoria.it, altrimenti su Facebook Il Gusto della Memoria c'è la nostra Flavia Ferrucci, che ogni istante posta tutto quello che potete sapere e che è necessario per venire a vedere i film. Senti, com'è strutturata la giornata di una delle due giornate, insomma, che orari ci sono di festival? Allora, il festival inizia adesso, l'orario preciso vedetelo nel programma che è già nel sito, comunque ilgustodellamemoria.it. comunque iniziano tutte e due le giornate circa alle 18, verso le 18. Sono dei film ospiti e i film in concorso. Come apertura ci sono i film che hanno vinto l'anno scorso e poi c'è un film ospite di un signore che ha fatto un film in Cina quando andò in Cina negli anni 70 e poi ritornando. Poi ci sono i film in concorso, poi c'è il primo film ospite che è il Registro di classe, che io ho avuto l'onore di dirigere insieme a Gianni Amelio. Il secondo giorno ancora i film in concorso, la premiazione, e poi ci sarà il film di Alessandro. Ah no, prima ci sarà questo di cui vi ho parlato, della domenica, la presentazione di Carlo Ludovico Bragaglia, e poi ci sarà come film ospite dopo la premiazione Alessandro Piva che porta Pasta Nera, che è un film che ha fatto anni fa, prodotto da Luce. Ci saranno in sala il direttore degli archivi Luce, Enrico Bufalini, e Alessandro Piva per rispondere alle domande. Senti Cecilia, sul portale ci sono anche i materiali delle tre edizioni precedenti? Sì, bisogna andare sul ilgustodellamemoria.it, c'è un'icona da spingere che si chiama video, un menu, e lì ci sono i film che hanno vinto l'anno scorso. Bene, allora un in bocca al lupo, un abbraccio e a presto. Grazie, grazie mille, a sabato. A sabato, ciao Cecilia. Ciao. Cecilia Pagliarani, direttrice della quarta edizione del Festival Cinema Vintage Il Gusto della Memoria, al Cinema Trevi qui a Roma, sabato e domenica 7 e 8 novembre. Ora mandiamo in onda la registrazione di un'intervista che abbiamo realizzato un paio di giorni fa con Roberto Salinas, autore del documentario The Troublemaker, perché oggi, ieri è partito per l'estero, starà via fino alla primavera, quindi sarebbe stato complicato sentirlo. Questo documentario speriamo che arrivi presto al grande pubblico qui in Italia attraverso festival, passaggi televisivi o distribuzione in DVD. Questa è l'intervista realizzata l'altro giorno. Sì, la storia, il documentario ripercorre la vicenda di un anno in particolare, è il 2008-2009, in cui un personaggio veramente fuori del comune diventa presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il personaggio in questione è padre Miguel Descoto Brockman, che è un nicaragüense, è un sacerdote aderente alla teologia della liberazione, è stato anche però ministro degli esteri del Nicaragua durante la rivoluzione sandinista. E il padre Miguel, tutti lo chiamano padre Miguel, lo conoscono come padre Miguel, arriva alle Nazioni Unite in un momento particolarmente caldo nella politica internazionale, è la fine dell'era Bush e l'inizio della crisi economica, tanto per dire alcune delle crisi che lui deve fronteggiare, e assume questo carico di presidente dell'Assemblea Generale con un impeto rivoluzionario mai visto dentro le Nazioni Unite. Senti, in tutto questo lui comunque ha goduto, nonostante poi tutte le difficoltà che ha incontrato, di una grossa stima da parte di tutti. Assolutamente sì, la cosa più rivoluzionaria in assoluto che ha portato il padre Miguel dentro le Nazioni Unite è un approccio molto umano alla politica. Lui ha sempre cercato da quella posizione di promuovere un dialogo orizzontale con tutti, la tolleranza, il rispetto soprattutto per le voci di quei paesi, i paesi in via di sviluppo, che normalmente non hanno molta voce all'interno di quel contesto, perché schiacciati dalla potenza invece dei cinque paesi, per esempio del Consiglio di Sicurezza, i cinque paesi con diritto di veto. Quindi facendo un discorso, promuovendo delle politiche molto progressiste, ha comunque goduto di larga stima, anche tra l'altro da parte di coloro che lo dovevano osteggiare, perché le posizioni dei loro paesi chiaramente erano contrarie alle sue. Però a livello umano, a livello personale, lui ha avuto ottimi rapporti sia con l'ambasciatore israeliano sia con quello palestinese, ecco, per dire, no? Ecco, proprio a questo proposito si fa riferimento al periodo dell'offensiva militare israeliana su Gaza, e questo ha messo in luce, se mai ce ne fosse bisogno, ma in maniera palese e drammatica, il sostanziale immobilismo dell'ONU, perché da una parte c'è l'Assemblea Generale e partecipata, e poi dall'altra il Consiglio di Sicurezza, che poi è quello che ha il potere di intervenire, bloccato dai veti dei paesi più importanti. Sì, è proprio così. L'Assemblea Generale in realtà è l'organo più democratico del sistema delle Nazioni Unite. All'interno dell'Assemblea Generale tutti i paesi, a prescindere da quanto siano grandi o potenti, hanno un voto equivalente a tutti gli altri. Quindi in teoria diciamo che il vero Parlamento mondiale è l'Assemblea Generale. Il Consiglio di Sicurezza è un organo esecutivo che però fin dall'inizio, dalla fondazione delle Nazioni Unite, viene dotato di enormi poteri rispetto alla quasi totale mancanza di poteri che invece ha l'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale può esprimere risoluzioni che non sono vincolanti, quindi può fare suggerimenti in qualche maniera al Consiglio di Sicurezza, ma è il Consiglio di Sicurezza che li deve ratificare, e nel Consiglio di Sicurezza pesa enormemente appunto l'influenza di quei paesi che hanno il diritto di veto. In questa situazione lui ha cercato di dare una modifica sostanziale alle dinamiche anche burocratiche dell'ONU, ecco, anche con qualche risultato, però insomma era una battaglia veramente al di sopra delle sue possibilità. Era una battaglia al di sopra delle possibilità di chiunque. Sì. Padre Miguel sicuramente ha una visione utopica di quello che dovrebbero essere le Nazioni Unite, e sapeva fin dall'inizio che certe cose non sarebbero passate mai. Ciò nonostante, durante il suo anno di presidenza ha lottato con grande forza per promuovere certe cose. Per esempio, per dirne una delle cose che è riuscito poi alla fine a fare, è stato quello di poter includere l'Assemblea Generale nei lavori e nei discorsi che stavano avvenendo in quel momento su come affrontare e risolvere la crisi economica che era appena cominciata nel 2008. 15 settembre 2008 c'è il crack di Lehman Brothers, che in realtà segna proprio l'inizio della crisi economica. Lo stesso giorno il padre Miguel Descoto viene eletto presidente dell'Assemblea Generale. Mm-hmm. Quindi questo lavoro che lui ha fatto poi in realtà ha prodotto alla costituzione di una commissione capitanata dal premio Nobel Stiglitz, Joseph Stiglitz, che di fatto è una commissione che resta nelle Nazioni Unite, è tuttora in opera. Ed è la prima volta che l'Assemblea Generale, quindi il consesso di tutti i paesi rappresentati nell'ONU, ha voce nel merito di questioni economiche che prima erano soltanto relegate agli organismi deputati, cioè l'IMF, il World Bank, eccetera. Senti Roberto, quindi lui in realtà riesce a fare delle cose. Però chiaramente no. Però chiaramente quello è un colosso, sì, insomma, sì, è molto difficile scardinare quelle logiche. Sì. Senti Roberto, come nasce quest'idea del documentario? Ma questa idea nasce dalla mia frequentazione con il Nicaragua. Io sono comunque mezzo italiano, mezzo nicaraguense, passo metà della mia vita in Nicaragua, quindi per me, per esempio, per padre Miguel, che è un personaggio che in Europa non è molto conosciuto, però è di fatto un personaggio notissimo e molto apprezzato in tutta America Latina, quindi io conoscevo il suo percorso, la sua figura. Quando ho saputo che lui era candidato ad essere eletto presidente dell'Assemblea Generale, l'ho contattato chiedendogli appunto di poter fare un'intervista, di poter avere un'idea di quello che avrebbe fatto. E da lì è nata l'idea del progetto. Noi abbiamo fatto una prima lunga intervista in cui ci siamo, diciamo, piaciuti a vicenda, e io ho proposto di poter seguire il suo lavoro e loro hanno accettato e si sono resi conto che in effetti quello che stavano facendo valeva la pena raccontarlo, e quindi da lì poi è cominciato tutto. Io ho passato molto tempo alle Nazioni Unite dietro di lui, e lui ha avuto il valore, il coraggio, alcuni dicono la follia, di permettere a noi e le nostre telecamere di essere praticamente sempre con lui, anche in riunioni molto private, molto intime, così. Ecco. Quindi poi da lì in poi insomma, siamo andati avanti. Ecco, proprio a questo proposito del pedinamento, chiamiamolo così, che hai potuto effettuare, quali sono le verità lampanti che hai scoperto in questo lavoro, in questo seguire il personaggio? Ma alla fine la cosa paradossale è che non ci sono poi così tanti misteri, nel senso che la realtà delle cose in realtà sarebbe accessibile a tutti se uno volesse andarla a cercare, nel senso che per esempio tutte le sessioni dell'Assemblea Generale del Consiglio di Sicurezza sono filmate, sono registrate e sono a disposizione del pubblico per chi lo vuole richiedere presso gli uffici delle Nazioni Unite, completamente gratis. Il fatto è che chiaramente nessuno poi va a fare quel lavoro certosino di andare veramente a cercare i piccoli dettagli. Quello che noi abbiamo visto stando tanto tempo lì dentro sono più che delle scoperte, delle conferme del fatto che c'è comunque all'interno della comunità internazionale riunita nelle Nazioni Unite un grande desiderio di cambiare quell'istituzione, perché tutti si rendono conto che ci sono dei problemi di fondo proprio, e però ci sono chiaramente dei poteri che impediscono un cambiamento. Insomma, l'idea del Consiglio di la riforma del Consiglio di Sicurezza, se ne parla da più di 40 anni di riforma del servizio di Consiglio di Sicurezza, non succede mai nulla. Faccio un altro esempio: l'embargo a Cuba. Per anni, per quasi 20 anni, quasi tutto il consesso dell'Assemblea Generale ha votato per rimuovere l'embargo a Cuba. Ogni volta ci sono uno o due paesi, che di solito sono Stati Uniti e Israele, che bloccano quel processo e l'embargo è ancora lì. Ora, per fortuna, ci sono percorsi nuovi nella politica tra Cuba e Stati Uniti, e quindi quella cosa probabilmente cambierà. Però ecco, per dire che per anni, nonostante 190 paesi siano d'accordo nel rimuovere una risoluzione, basta che due dicano no e la cosa continua in vigore. Sì, sì, sì. Roberto, intanto ti chiedo dove è stato presentato finora, poi che percorso farà questo lavoro e se ci sarà poi la possibilità prossimamente di vederlo anche qui in Italia. Ah, il film è stato presentato per la prima volta al Festival del Cinema di Cuba l'anno scorso, al Festival del Nuovo Cinema Latinoamericano a La Habana, e da lì ha fatto un percorso di festival, ha fatto l'Havana Film Festival a New York, il Biografi Film Festival a Bologna, il Festival Internazionale dei Diritti Umani a Buenos Aires, sta facendo altri festival e sta camminando in quel percorso lì. Ci sono delle vendite televisive, la produzione del documentario che fa capo a Gioia Avvantaggiato per la GIA Productions di Roma, comunque ha in corso accordi per la vendita del film. Il film è stato già venduto a varie televisioni in Polonia, in Danimarca, in Nuova Zelanda, in Canada, in altre televisioni. Per il momento non abbiamo conferma di una messa in onda in Italia, però so che è una cosa che è in corso di sviluppo e dovrebbe avvenire. C'è comunque un sito di riferimento, una pagina Facebook o qualcosa del genere? Sì. Il sito, c'è una pagina dedicata al film che è www.thetroublemakerthefilm.com. Ok, quindi già un elemento. Questa è la pagina, esatto, in cui si possono trovare tutte le informazioni sul film, dove verrà proiettato, altri materiali, fotografie, trailer, eccetera. Allora, ci diamo, Roberto, un appuntamento. Tu adesso partirai, starai fino a primavera all'estero, per qualche notizia rispetto a eventuali partecipazioni a festival italiani o addirittura uscite in sala, insomma, che sarebbe la cosa più auspicabile, o passaggi televisivi. Ah, certo. Va bene? Certo, grazie. Un abbraccio e a presto. A presto. Ciao, Roberto, ciao. Questo era Roberto Salinas per quanto riguarda il suo documentario The Troublemaker. E per quanto riguarda invece le uscite in sala di questo giovedì 5 di novembre, la copertina di questa settimana è dedicata a Malala, di cui esce il documentario di Guggenheim in sala da oggi. Ne parliamo con Paolo Pienza di Fox Searchlight. Ci sei, Paolo? Sì, sono qui, ciao, un saluto a tutti. Allora, noi era un po' che non ci sentivamo, era dal Budapest Grand Hotel, se non sbaglio. Per quanto riguarda questo lavoro, abbiamo dedicato, come ti dicevo, una foto di Malala che davanti a un microfono e nell'atto sembra di togliersi il velo dai capelli, quindi mi sembra un'immagine in positivo. Paolo, non ho avuto modo purtroppo di assistere alla proiezione stampa del film, quindi ne parleremo da spettatore che vuole saperne di più. Quindi raccontaci un po' di questo lavoro documentario. Dunque, innanzitutto, come hai citato, partiamo dall'autore. David Guggenheim è il regista premio Oscar di Una scomoda verità. Anche lì un'attenzione al sociale, in quel caso l'ecologista. Esatto, conferma un autore interessato a temi non commerciali, mettiamola così, a temi di interesse sociale o sulla cooperazione o sul terzo mondo. E questo film è la storia di Malala Yousafzai, la bambina pakistana, che è una ragazza pakistana, 18 anni, ed è un documentario è un docufilm, se vogliamo, un documentario che lavora su tre livelli paralleli. Uno è un'intervista a una troupe che ha seguito Malala nel corso di diversi mesi nella sua vita quotidiana in casa, sì, e con i suoi impegni internazionali. Un altro livello è il racconto dell'attentato che Malala ha subito a opera dei talebani in Pakistan, dal quale si è salvata poi per miracolo. Il terzo e infine livello è una serie di sequenze di animazione molto belle, molto delicate, con le quali si racconta l'infanzia di Malala, la storia del suo nome, cioè tutto quello che non era possibile girare con una troupe è stato riprodotto attraverso un'animazione, un cartone animato molto particolare. Questo rende il film interessante sia a un pubblico sofisticato che vuole andare a cercare magari un prodotto diverso, sia anche a un pubblico giovane, a un pubblico di ragazzi che oltre a conoscere Malala, il personaggio, ne riesce a percepire la storia attraverso uno strumento più con il quale ha maggiore consuetudine, come quello dell'animazione. È un film bellissimo, non lo dico perché sono parte in casa, ma lo dico perché è commovente. Sì, io l'ho già visto ormai diverse volte per lavoro e inevitabilmente piango nell'ultima parte, perché l'ultima parte è il discorso che poi lei fa alle Nazioni Unite ed è veramente fortissimo, veramente emozionante. Oh Paolo, elemento centrale della sua vicenda, ma anche delle sue battaglie subito dopo questo attentato che ha subito, è quello dell'istruzione come strumento fondamentale di liberazione, autodeterminazione, a partire dalle donne, ma più in generale per tutta l'umanità oppressa. Certo, il tema su cui Malala impegna la sua lotta è quello dei diritti principali, dei diritti fondamentali dell'infanzia, dei quali il primo è proprio il diritto all'istruzione. E poi in genere c'è il diritto delle donne di imporsi, di migliorarsi, di studiare, di avere una voce, perché spesso il problema è proprio che in molti paesi, in molte culture, le donne faticano proprio anche a essere rappresentate, a farsi sentire. Sì, quindi diciamo che non è un tema che riguarda solamente paesi in via di sviluppo o paesi nei quali magari il fondamentalismo religioso è forte, riguarda anche noi, perché anche nei paesi occidentali, anche in Italia, ci sono bambini che sono sempre più allontanati dalla possibilità di accedere all'istruzione, o c'è un problema di accessibilità delle donne alla possibilità di potersi esprimere o di poter far sentire la loro voce. Quindi, insomma, è un film che parla apparentemente di cose che oggi sono d'attualità, come i rifugiati e come i bambini del terzo mondo, ma in realtà parla del mondo com'è, tutto, Occidente e Oriente. Senti, mi sembra attualissimo. Paolo, che reazioni ha suscitato nei paesi in cui è stato distribuito il film? Il film sta uscendo adesso più o meno in tutti i paesi, quindi non abbiamo ancora reazioni. È uscito negli Stati Uniti da qualche giorno e ovviamente l'importanza del tema in qualche modo prevalica quelli che possono essere giudizi estetici sul film. Noi ieri abbiamo presentato il film alla Camera dei Deputati a Roma, ospiti del Presidente della Camera, Laura Boldrini, che essendo poi un ex commissario delle Nazioni Unite teneva molto a questo tema e insomma è stata molto sentita nella sua partecipazione al film. Quindi il film, se vogliamo, per l'importanza che ha il tema, viene giudicato, se ne parla in relazione al contenuto più che al valore del film. Invece vi dico, è però un bel film, è girato benissimo, è commovente, ci fa conoscere un personaggio che conoscono bene forse soltanto i ragazzi giovanissimi, perché nelle scuole è molto popolare Malala, mentre chi ha più di 20 anni magari fatica un po'. Io quando ho scoperto che avrei dovuto occuparmi di questo film mi sono dovuto documentare, sono tornato a casa, ho scoperto che mia figlia di 13 anni sapeva tutto, quindi mi ha spiegato tutto lei, perché io Malala non la conoscevo. Per cui anche un personaggio che forse per questioni generazionali è già più famoso, è già più un'eroina per chi ha fino a 15 anni, e per gli adulti invece sarà una scoperta vederla al cinema. Senti, il regista David Guggenheim lo sta accompagnando nell'uscita nei vari paesi? In alcuni paesi sì, ma contemporaneamente Guggenheim è impegnato ora nella realizzazione di un altro lavoro, infatti è in viaggio in Medio Oriente in queste settimane. Mm-hmm. E noi abbiamo ottenuto abbiamo fatto intermediari per delle interviste con lui e gli abbiamo dovuto mandare le domande via mail, perché credo che in questo momento sia in Siria. Mm-hmm. Infatti... quindi non è disponibile, diciamo, per una pubblicity del film vero e proprio. Sì, sì. Senti, quali passaggi ci sono stati per prendere poi la decisione di distribuirlo in Italia, Paolo? Allora, noi innanzitutto siamo una major americana, quindi siamo per definizione dei biechi mercanti, quindi questo è la premessa a cui partire. Detto questo, però, per la Fox fare questo film è stato soprattutto una questione di prestigio, cioè la Fox ha voluto dare un supporto a questo tema che per l'azienda è molto sentito, per cui su questo film abbiamo avuto il mandato non di fare incasso ma di farlo vedere. Per una volta lavorare per una major mi permette di seguire un progetto nel quale l'attenzione non è su quello che sarà l'incasso complessivo del film, ma è fate di tutto per aiutare la Malala Foundation, l'organizzazione Malala, a diffondere i temi della sua battaglia. Quindi allargare. E per una volta, devo dire, siamo orgogliosi di poterlo fare, insomma. Mm-hmm. Bene, Paolo, da oggi nelle sale quante copie per Malala? Allora, dunque, il numero di copie può essere fuorviante, perché usciamo con 25 copie, per cui siamo presenti in tutte le città principali di ogni regione, diciamo così, non è un numero alto, ma il film è a disposizione di tutte le scuole italiane. Ah, ecco. Perché abbiamo avuto il supporto del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha mandato un comunicato a tutte le scuole chiedendo agli insegnanti di mostrare il film ai ragazzi. Quindi noi mettiamo il film a disposizione di tutte le scuole che ce lo chiederanno e sarà possibile organizzare matinee o proiezioni esclusivamente per le scuole, perché riteniamo che loro siano il pubblico fondamentale a cui il film dovrebbe essere diretto. Per cui, al di là delle 25 copie nelle sale che possiamo trovare ognuno nella città principale della propria regione, il film sarà disponibile anche in centinaia di copie per tutte le scuole che ne faranno richiesta. Paolo, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi, grazie per questa opportunità e buon lavoro. Ciao ciao, a presto. Ciao, a presto. Paolo Pensa di Fox Searchlight per parlare del documentario Malala, in uscita in sala oggi giovedì 5 novembre, e a questo dedichiamo anche un piccolo estratto dal trailer con le parole chiaramente doppiate di un discorso tenuto da Malala. Io sono quelle 66 milioni di ragazze a cui è negata un'istruzione. Non sono una voce solitaria. Io sono tante voci e le nostre voci sono la nostra arma più potente. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. Questo è tutto per quanto riguarda Visionari, torniamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15, tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming sul sito della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta.